Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, Consiglio dei Ministri e soprattutto più che la legge finanziaria dato oggi sull'occupazione. Il Consiglio dei Ministri, come atteso e ampiamente anche annunciato, ha approvato la finanziaria 2010. Tre articoli più le tabelle, 3,5 miliardi quasi di euro per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, prorogato il bonus ristrutturazione al 2012 e poi un fondo che sarà istituito presso Palazzo Chigi e alimentato anche dalle maggiori risorse provenienti dagli introiti sullo scudo fiscale. Queste conferme e novità, noi in apertura parleremo con il ministro Sacconi, ministro del lavoro, oltre che la salute, del dato di oggi sulla disoccupazione, in cui l'Istat vede una disoccupazione salire nel secondo trimestre al 7,4%. Va detto che il dato è un dato in aumento, ma non è il più alto, è il più alto dal 94 invece il calo che si è registrato, e cioè 378.000 posti di lavoro rispetto al 2008, 378.000 posti di lavoro in meno. Questo è il dato più alto dal secondo trimestre del 1994 quanto a variazione, quanto invece a quota complessiva dei disoccupati siamo al 7,4%, per fortuna un dato anche in maniera considerevole più basso dei tassi che si registrarono negli ultimi 15 anni. Poi parleremo della borsa, che resta positiva di pochissimo, più 0,1%, dico resta perché in realtà è molto penalizzata da Unicredit, meno 3,7%, voce di un aumento di capitale. C'è tra l'altro, ci sono attese per capire che cosa deciderà per quello che riguarda Unicredit oggi il comitato strategico, ma vanno male non solo Unicredit, anche altri bancari. Tiene invece, quindi fa eccezione, il titolo Banca Intesa, ma anche Unipol, devo dire. Unipol guadagna il 4,2%, è il miglior titolo assieme a Generali più 2% e Alleanza più 1,70%. Oggi gli assicurativi si muovono in maniera molto diversa. Dicevo, Intesa tiene e va sopra i 3 euro per azione, 3,04 euro, più 0,7%. Si potrebbero allungare i tempi per Fideuram, ma anche in questo caso voci di un'emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi di euro. Euro su dollaro sempre molto forte, a 1,48 la moneta unica sul biglietto verde, quindi continua e permane la debolezza del dollaro. Parleremo nel corso del programma anche dei temi bancari e poi continueremo con le interviste agli imprenditori, alternando imprenditori noti, chiamiamoli così, di successo, ma perché guidano aziende grandi, con i casi degli imprenditori meno noti e per questo delle volte anche forse più in difficoltà. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Partiamo proprio e continuiamo con i mercati, perché per quello che riguarda il petrolio oggi siamo in rialzo sopra i $71 al barile, più 2,4%. Va detto, visto che molti di voi ci hanno scritto sul tema del petrolio, che è vero che oggi il petrolio è in rialzo, ma va ricordato che praticamente è da mesi che si mantiene tra quota 60 e quota 70 dollari al barile. L'economia sta rialzando la testa, quella globale, ma la ripresa sarà lenta, lo dice oggi il Fondo Monetario Internazionale nei capitoli del World Economic Outlook. Devo dire che insomma ormai l'hanno capito tutti, l'abbiamo capito anche noi, figurarsi, l'economia appunto rialzerà la testa ma sarà una ripresa lenta. Direi che a questo punto, come invito ai vari organismi internazionali, anche a dire come, in che modo, con che intensità, perché sennò ormai la frase E così il titolo l'abbiamo capito. Il Fondo Monetario Internazionale comunque ricorda che stiamo attraversando e abbiamo attraversato la più severa crisi finanziaria dalla Grande Depressione, e quindi dal 1929, e la recessione economica più profonda dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi 1945. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, noi lo riportiamo, non è che vogliamo fare i catastrofisti. Le banche italiane sono le più care d'Europa, già ne abbiamo parlato. Oggi la Commissione Europea pubblica il rapporto che era già stato anticipato, punta il dito contro le banche italiane al primo posto nella classifica europea del caro conto corrente. Tutte le voci di spesa del conto corrente italiano sono più alte della media europea e fanno dell'Italia, si legge testualmente, il paese dove i conti in banca costano di più. Volete sapere quanto? Beh, un conto corrente italiano costa in media 253 euro contro i 178 della Spagna, i 154 della Francia, i 103 della Gran Bretagna, gli 89 della Germania e i 27 della Bulgaria, la meno cara d'Europa. Diciamo, da Bulgaria forse si può anche escludere, però insomma in Germania 89 euro vuol dire pagare praticamente 170 euro in meno all'anno per la gestione in media di un conto corrente, e questo già inizia a essere interessante, anche perché in Germania immaginiamo i servizi bancari siano quantomeno pari a quelli italiani. Per paura dei costi nascosti, continua Bruxelles, solo il 9% degli italiani ha spostato il conto corrente negli ultimi due anni, perché, si legge anche in questo caso testualmente, il consumatore italiano non capisce cosa paga quando gli offrono un nuovo conto corrente e per mancanza di trasparenza non riesce a confrontare le offerte e resta con quello che ha. Emerge un ritratto di un correntista italiano praticamente invischiato, legato a doppia corda al conto corrente. Ne parleremo più avanti. Andiamo con la legge finanziaria. Ripeto, anche l'approfondimento sarà alle 18, ma insomma la stima sul PIL è leggermente migliorata, meno 4,8% rispetto a quanto presente a giugno-luglio nel documento di programmazione economico-finanziaria. Si parlava di un PIL in calo del 5,2% quest'anno. Il deficit sarà al 5,3% e si ridurrà al 5% nel 2010. Questo è il deficit lordo, quello corretto per il ciclo sarà del 3,3%. E invece peggiora il debito toccherà un picco del 117% del PIL nel 2010, tra l'altro migliora rispetto di un punto rispetto a quanto previsto nel DPF, ma si attesterà appunto al 115% quest'anno e al 117% l'anno scorso. Io ricordo che praticamente due anni fa si riusciva ancora ad avere un debito in Italia intorno al 104-103% del PIL e 15 punti percentuali dovuti in larga parte anche alla crisi economica, o diciamo 10 punti percentuali a spanne del nostro PIL, vogliono dire 140 miliardi di euro di peggioramento del debito pubblico. Le commissioni bilancio e finanze del Senato hanno approvato il decreto correttivo e la nuova versione dello scudo fiscale. È saltato, dicono alcuni per fortuna, il salvacondotto penale dall'emendamento cosiddetto Fleres, che però ha mantenuto l'allargamento delle garanzie, delle protezioni per un insieme di reati tributari, tra cui appunto il falso in bilancio. La parziale marcia indietro rispetto alla versione presentata dal senatore Fleres fa infatti saltare il salvacondotto penale, cioè sono esclusi dall'applicazione dello scudo tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi 5 agosto 2009. Invece restano esentati gli intermediari e i professionisti dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio. E praticamente la copertura viene estesa a tutti i reati tributari e penali come il falso in bilancio, rilascio fatture false, distruzione di scritture contabili. Il dato sull'occupazione, quindi iniziamo con il primo tema. adesso di Focus Economia. Dicevamo, il mercato del lavoro oggi, diffuso dato dall'Istat, secondo trimestre 2009, la disoccupazione cresce, va anche detto che ci si aspetta da ogni parte che continui a crescere nei prossimi trimestri. I dati sulla disoccupazione mondiale vedono l'America al 9,7%, il Giappone al 5,7%, la Cina al 9%, la Gran Bretagna quasi all'8%, la Spagna al 18%, lo dico perché è importante anche confrontare i dati. Da noi nel secondo trimestre 378.000 i posti di lavoro persi rispetto a un anno prima, il dato peggiore dal 1994, e il tasso di disoccupazione che sale al 7,4%. I commenti a caldo dopo il Consiglio dei Ministri del Presidente del Consiglio Berlusconi. Abbiamo la disoccupazione più bassa in Europa, è il 7,4%. La media degli altri paesi europei è 9,4-9,7. Così Berlusconi, il ministro Tremonti ricorda sulla falsariga del Presidente del Consiglio che l'occupazione, la disoccupazione italiana va meglio che in altri paesi, e poi dice lo stesso Tremonti: attenzione, non siamo negazionisti, che vuol dire non neghiamo l'importanza e il peso di questa crisi, prima finanziaria e poi economica. Merito di tutti i governi che ci sono stati finora, l'Italia sull'occupazione è andata molto bene, con numeri assolutamente migliori della media europea. Adesso siamo ancora molto meglio della media europea. Questo non vuol dire, no, qua, a questo punto uno un po' fanatico ti dice allora stai negando la crisi. No, sappiamo bene che c'è la crisi, però sappiamo anche che nella crisi ci sono dei dati che vanno considerati con equilibrio. Allora, se in tutta Europa è oltre il 9 e da noi sale da 7,4 verso, è meglio che avere il 20% di disoccupazione è peggio che avere il 7,4 che diventa 8, non sappiamo quanto diventa. Allora dice sei irresponsabile negatore della crisi, irresponsabile ottimismo. Non vuol dire cioè vedere che è un po' diverso dall'estero, che in Spagna hanno i 20, noi abbiamo diverso, non è essere ottimisti, è essere realisti. No, vuol dire che non siamo negazionisti, è certo che c'è la crisi. Insomma, disoccupazione in aumento ma più bassa della media europea, il dato è un dato che comunque vede una crescita al 7,4% contro un 6,7% del primo trimestre. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666, ne parleremo tra un istante con il ministro Maurizio Sacconi. Prima di tutto la nostra scheda. Giovane, maschio, con contratto a termine e impiegato nell'industria. È questo l'identikit della vittima tipo della crisi economica, disegnato dai dati Istat sull'occupazione. Su 378.000 posti persi nel secondo trimestre del 2009, ben 229.000 erano infatti contratti a termine e altri 65.000 erano collaborazioni. Colpiti anche i lavoratori autonomi. Sono 145.000 quelli rimasti senza occupazione, per lo più artigiani e commercianti. Praticamente immuni dalle conseguenze della crisi, viceversa, i dipendenti con contratti a tempo indeterminato, che hanno anzi attenuato la flessione complessiva, registrando un incremento di 61.000 unità. A livello geografico, la crisi si è fatta sentire soprattutto al sud, dove sono svaniti 271.000 posti di lavoro, contro i 117.000 persi al nord. Sono invece cresciuti di 10.000 unità gli occupati delle regioni centrali. Paradossalmente, nel mezzogiorno il tasso di disoccupazione è aumentato meno che altrove, attestandosi comunque al 12%. Il dato è però solo apparentemente positivo, in quanto frutto del cosiddetto effetto scoraggiamento. In pratica si infoltisce la platea di chi rinuncia a cercare un lavoro e dunque non viene più conteggiato nelle statistiche sulla disoccupazione. In generale, la perdita del posto di lavoro ha colpito più i maschi che le donne e ha risparmiato i lavoratori stranieri, che sono anzi aumentati di 184.000 unità. Quanto infine ai settori, ha retto l'agricoltura, mantenendo sostanzialmente stabile il numero degli addetti. Molto male l'industria, con quasi 200.000 posti in meno, vale a dire il 3,9% della forza lavoro manifatturiera. In calo del 2% i lavoratori delle costruzioni, mentre nei servizi la flessione è stata più modesta, limitandosi a un meno 0,9%. Questi dati quindi diffusi oggi dall'Istat, avete sentito delle variazioni anche regionali, molte cose erano note. Vorrei ragionarne con il Ministro al Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, in collegamento con noi. Buonasera, Ministro. Buonasera. Ministro, come ricordava la nostra scheda, disoccupazione al 7,4% nel secondo trimestre. L'Istat ricorda che è il dato peggiore dal 1994. Vorrei avere un suo commento anche in chiave prospettica, perché ormai in tutta Europa ci si attende che per un po' di trimestri i dati sull'occupazione peggiorino. Mi perdoni, non è il dato peggiore dal 1994, ma è il dato peggiore dal 2006. Mentre invece dal 1993, da quando si effettua questa rilevazione con questa metodologia, fino al 2005, i dati sono stati ben peggiori. Tra il 93 e il 94, quando ci fu una condizione di crisi dell'economia italiana, arrivammo all'11%, e ancora alla fine degli anni 90, nel 97 se non ricordo male, eravamo oltre il 12%. Quindi per fortuna registriamo un tasso di disoccupazione ben lontano da quelli che abbiamo conosciuto in epoca recente. Allo stesso tempo lo scostamento che si è verificato rispetto ad un anno fa, quando le condizioni dell'economia erano ben migliori, è molto contenuto, perché allora eravamo al 6,7%. E confrontato con il mese precedente c'è un leggerissimo incremento del tasso di disoccupazione, quindi nelle condizioni date di una grande crisi che non può certamente essere sottovalutata né deve essere mai sottaciuta, l'impatto sull'occupazione si rivela molto contenuto, e anche tenendo in considerazione delle azioni che sono state svolte in termini di molto consistenti per proteggere il reddito dei lavoratori in costanza del rapporto di lavoro, quindi l'uso della cassa integrazione o dei contratti di solidarietà. Sì, immagino infatti che l'Istat nel suo comunicato si riferisse al calo di 378.000 unità come dato peggiore del 94, non come dato assoluto, perché chiaramente la disoccupazione per fortuna resta pur crescendo al 7,4%, mentre sappiamo, o ci ricordiamo tutti, come lei sottolineava, che negli anni passati e in decenni passati vi fosse una disoccupazione a due cifre. Venendo alla chiave prospettica, invece, sappiamo, perché ce l'hanno detto la OCSE, la Commissione Europea, il Fondo Monetario, che in tutta Europa la disoccupazione tenderà ad aumentare nei prossimi trimestri come effetto quasi inerziale di una crisi che da finanziaria è diventata economica ed economica adesso occupazionale, quindi con una inerzialità classica in questo tipo di crisi. Lei su questo è preoccupato, o comunque ritiene che per quanto in aumento dovremmo registrare tassi di disoccupazione, mi passi il termine, accettabili, gestibili? Ma noi cerchiamo soprattutto di essere attrezzati per affrontare anche una condizione peggiore che può essere determinata proprio da quelle regioni inerziali di cui lei diceva. Non sarebbe ciò contraddittorio con la ripresa, perché nella ripresa alcune aziende potrebbero, apprezzate le condizioni del loro mercato, decidere quella ristrutturazione che sino ad ora hanno rinviato. In ogni caso il nostro dovere è quello di avere risorse adeguate per gli ammortizzatori sociali e di sollecitare le regioni allo stesso tempo a impiegare nel modo più efficace le ingenti risorse che hanno per la formazione. Allo stesso modo vanno sollecitati anche gli organismi interprofessionali, bilaterali, che gestiscono le risorse raccolte dal monte salari nella misura dello 0,30% per la formazione. Cioè dobbiamo certamente continuare a proteggere il reddito di chi è costretto all'inattività, ma dobbiamo proteggerne anche le competenze, e per farlo noi solleciteremo le regioni anche attraverso un tavolo cui parteciperanno anche le parti sociali per ridefinire compiutamente i termini della politica della formazione, che fino ad ora troppo spesso è stato solo festa per formatori. Tra l'altro in questo si inserisce, visto che sta parlando di formazione e anche di fondi, c'era un progetto che lei, se non ricordo male, annunciò anche a fine agosto con il ministro di istruzione Gelmini sul integrare apprendimento scolastico e lavoro. Cioè, se non ricordo domani male... presenteremo il piano d'azione con una conferenza stampa. È un piano d'azione che vuole proprio soprattutto rivolgersi all'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione fra apprendimento e lavoro. Ministro Sacconi, tra l'altro oggi abbiamo appreso che su 8 miliardi di euro stanziati per gli ammortizzatori sociali, quindi immagino soprattutto la CIG, sono stati spesi solo 1,5 miliardi. E vorrei capire quanto prevedete verrà richiesto e come se lo spiega, cioè nel senso che da un lato chi ascolta può sembrare strano che vi sia una disoccupazione che sale con questi tassi, ma davvero gli ammortizzatori sono finanziati nel biennio 2009-2010 per 32 miliardi di euro, dei quali 8 miliardi sono destinati ai cosiddetti ammortizzatori straordinari, sì, o in deroga alle regole ordinarie, sì, cioè sono quegli ammortizzatori sociali che quindi si rivolgono a quei lavoratori di quelle imprese che altrimenti non ne usufruirebbero o comunque allungano il tempo di fruizione oltre la regolazione ordinaria. Questi ammortizzatori straordinari in deroga sono stati utilizzati nel 2009 per 1,5 miliardi sino ad ora, e ragionevolmente entro l'anno potrebbero essere impegnati altri 500 milioni per un totale quindi di 2 miliardi di euro. Le somme impegnate potrebbero non corrispondere a quelle effettivamente spese, perché stiamo registrando una differenza significativa tra le ore autorizzate e le ore di effettiva sospensione dal lavoro. Potrebbero essere quest'ultime il 60% circa delle ore autorizzate, quindi potremmo anche riscontrare una spesa inferiore a quella che ora abbiamo impegnato. Quindi per far capire a tutti, sono più che sufficienti, avendo stanziato 8 miliardi di intesa con le regioni nel biennio, le risorse sono sufficienti, deve mantenersi il patto con le regioni, per cui le regioni devono concorrere a questo fondo per la loro parte, e in ogni caso abbiamo già detto che le risorse eventualmente eccedenti rimarranno sempre destinate a politiche di carattere sociale. Ecco, ma per far capire a tutti, cioè lei ci sta dicendo che poniamo su 100 ore di cassa integrazione straordinaria che un imprenditore può aver chiesto, faccio esempi assolutamente a caso, poi utilizzate sono state 60 ore, che sarebbe anche una buona notizia, cioè io come imprenditore posso averne chieste 100 perché temevo di aver bisogno di 100 ore di cassa integrazione e poi ne ho usate solo 60, sì. Ho capito bene? Sì, è così, questo è sempre accaduto, uh-huh, anche in passato, sembrerebbe essere accaduto in misura anche maggiore di quanto accaduto in passato, di quanto accade potremmo dire di solito. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vi ricordo che siamo in collegamento con il ministro al lavoro, alla salute e alle politiche sociali Maurizio Sacconi per commentare i dati di oggi sulla disoccupazione. Ricordo appunto 378.000 posti di lavoro persi nel secondo trimestre dell'anno rispetto a un anno prima. Il dato, come si ricordava col ministro, è il peggiore dal 94 come perdita. Come dato complessivo sulla disoccupazione invece siamo al 7,4%, il governo ha fatto notare meglio di molti altri paesi. Ministro, veniamo al tema dei rinnovi contrattuali. Centinaia di migliaia di lavoratori interessati ai rinnovi contrattuali nei prossimi mesi. Oggi è stato firmato l'accordo unitario per il rinnovo del contratto del settore alimentare. Voi direte, ma gli alimentaristi? No, sono 400.000 lavoratori interessati, e per cui a questo punto è previsto un aumento medio a regime per il triennio di 142 euro e un una tantum di 227 euro per i 4 mesi di vacanza contrattuale, cioè in cui il contratto non è stato rinnovato ed era scaduto. È il primo rinnovo contrattuale raggiunto dopo l'accordo del 22 gennaio 2009, quello sulla riforma dei contratti che non fu firmato dalla CGIL e che prevede un peso più grosso al contratto aziendale al secondo livello di contrattazione e un peso più leggero, diciamo così, al contratto nazionale. E la cosa interessante è che in questo contratto degli alimentaristi il rinnovo verrà fatto anche in base alle nuove regole della contrattazione ed avrà cadenza triennale. Ministro. C'è una legge dello Stato che intendiamo prorogare per il prossimo anno che prevede la detassazione alla secca al 10%, quindi definitiva, di tutte le erogazioni che variabilmente sono collegate a indicatori d'impresa, a risultati, a produttività, incrementi di produttività. Questa è la norma che concordammo con le parti sociali, che varammo già nel primo Consiglio dei Ministri di Napoli e che poi abbiamo confermato per il 2009 e intendiamo confermare anche per l'anno 2010. In questo modo ragionevolmente è incoraggiata la contrattazione territoriale, perché è da essa che promanano accordi dedicati a incrementi legati a indicatori di produttività. Però in ogni caso io saluto molto favorevolmente questo contratto degli alimentaristi, perché appunto è il primo contratto coerente con il modello contrattuale. Come era facile immaginare, alla fine poi tutte le organizzazioni, anche chi come la CGIL si era autoesclusa dal contratto collettivo, dall'accordo nazionale, ha accettato quei contenuti. Ecco, chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666 che differenza c'è tra una contrattazione territoriale o comunque legata in una parte variabile all'azienda e il tema delle gabbie salariali, nel senso che lei ha sempre detto in maniera molto chiara anche ai nostri microfoni che il punto non era tornare alle gabbie salariali, quindi a contratti fatti sulla base del teorico costo della vita di un territorio, ma, se ho ben capito, però vorrei conferma, alla singola azienda o gruppi di aziende sulla base della produttività delle aziende stesse. Nella parte variabile del contratto. Ma, diciamo. Il termine gabbia salariale è un termine giornalistico, non certo tecnico, che in passato ha significato una definizione amministrativa di una parte del salario collegata al costo della vita del territorio. La stessa Lega che ha utilizzato ancora questo termine, però, sembra detto che non voleva riferirsi alla vecchia procedura amministrativa di cui ho detto, ma che voleva sollecitare, come tutto il governo ha voluto sollecitare, lo spostamento sempre più del baricentro della contrattazione collettiva nell'azienda o nel territorio. Nel territorio accade per gli artigiani, per i coltivatori, per l'agricoltura, per tutto il settore dell'agricoltura e per l'edilizia, mentre invece le intese relative all'industria identificano nell'azienda il luogo della contrattazione decentrata, ed è appunto quello che noi speriamo si realizzi sempre più attraverso contratti coerenti con l'accordo che è stato realizzato. Un'ultima domanda, Ministro Sacconi, su un tema che spesso noi stessi come giornalisti tralasciamo, presi anche molto dall'attualità e dalla cronaca. Si calcola che siano 30.000, ne abbiamo parlato recentemente, i posti di lavoro che mancano, vacanti, si direbbe in altro gergo, nel mondo dell'artigianato. Ora, è un po' strano vedere e commentare un dato con una disoccupazione in aumento di 345.000 unità, da un lato, e scoprire che 30.000 artigiani mancano, che vi sarebbe spazio, posto, lavoro per 30.000 artigiani, professione temo che siano anche di più, ecco. Confartigianato stima che siano ora un terzo dei lavori che le imprese associate stanno cercando, quella quota parte non soddisfatta dall'offerta di mercato. E questo cioè molto significativo, ne parleremo domani con la collega Germini presentando proprio questo piano d'azione dedicato all'occupabilità dei più giovani. Questo indica quanto sia necessario orientare ancor più i percorsi educativi alle professionalità effettivamente richieste dal mercato, rivalutare anche la formazione di carattere tecnico-professionale, l'apprendimento di mestieri che abbiano anche una componente manuale, significa soprattutto per quanto riguarda i più giovani accompagnarli a percorsi che li rendano ragionevolmente occupabili nel tempo e anche invitarli a non rifiutare i cosiddetti lavori cattivi, che in realtà cattivi non sono, sono solo magari faticosi o diversi dalle aspettative che una persona può avere, ma che soprattutto all'inizio del percorso lavorativo devono magari essere messe da parte per accettare comunque un lavoro che concorre alla formazione della persona, del suo carattere, della sua attitudine a risolvere i problemi e che lo farà poi magari capace di raggiungere le proprie aspirazioni. Insomma, io direi meno laureati in scienza della comunicazione, lo dico contro il mio interesse, ma insomma, e qualcuno che avesse più voglia di fare mestieri nobili, lo ribadisco, come l'artigiano, nobili e anche che danno valore. Certo, nobili e gratificanti, anche economicamente gratificanti, possono essere, sono molti mestieri che sono fortemente richiesti. No, perché poi è anche strano vedere che poi ci si lamenta degli immigrati che occupano certi posti di lavoro. Ora, voglio dire, nel caso degli artigiani non stiamo parlando assolutamente di posti di lavoro così che possono essere in nessun modo immaginati come tra virgolette dequalificanti. Comunque speriamo che anche su questo mercato del lavoro si riassesti, appunto, magari ci saranno meno applicazioni per fare i geni della finanza nelle banche d'affari e anche appunto meno giornalisti e qualche artigiano in più non farebbe male. Questo è un mio commento. Chiaramente grazie al Ministro al Lavoro, Salute e Politiche Sociali Maurizio Sacconi. Grazie, un saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori. E adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi la borsa, volete la chiusura, giustamente, avete ragione, invariato FTSE MIB, FTSE All più 0,16, meglio resta Europa perché su Milano pesa soprattutto Unicredito che ha perso il 3,5%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora commentiamo la borsa partendo oggi dal caso, forse è un po' forte, ma insomma, dall'andamento di Unicredito, meno 3,5% con una borsa invariata. Il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione invece è Unipol, più 5,1%, Mondadori più 2,80%, Tenaris più 2,4% come Prysmian. Il 2,3% lo guadagna ST Microelectronics, il 2,2% Generali, Alleanza più 2%, Mediaset più 1,7%, Campari più 1,5%. È ancora in corso, per quello che riguarda Unicredito, il comitato strategico della banca e le voci circolate sono quelle di un aumento, di un possibile aumento di capitale. Dichiarazioni di uno dei del presidente di Unicredito, Dieter Rampl, a una domanda se stanno discutendo di un aumento di capitale, ha detto stiamo discutendo. Allora, saluto da un lato Livia Zancaner di Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera Livia. Buonasera. Prima di tutto però vorrei sentire Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. È chiaro che il comitato è ancora in corso, quindi non sappiamo nulla, lo dico in maniera molto, molto chiara, però la novità che, a cui il mercato comunque ha dato credito, visto che il titolo ha perso il 3,5%, non è tanto l'ipotesi di mettere obbligazioni, o meglio addirittura sottoscrivere Tremonti Bond o cedere degli asset. La novità parrebbe questo aumento di capitale, Alessandro. Sembra, naturalmente aspettiamo che si concluda il comitato strategico per dare indicazioni definitive, visto che si tratta di un titolo quotato, però l'idea è che la banca stia valutando un aumento di capitale anche consistente, di pari importo, 4 miliardi a quello dei Tremonti Bond richiesti finora, che dovrebbero appunto sostituire, anzi questo aumento di capitale dovrebbe sostituire l'importo dei Tremonti Bond, per rafforzare il patrimonio del gruppo. Questa è l'idea su cui starebbe lavorando il management di Unicredito ed è anche un'idea che non troverebbe del tutto d'accordo i grandi azionisti della banca, in particolare le fondazioni, che a inizio anno hanno già sottoscritto un aumento di capitale a 3 miliardi di Unicredito attraverso una serie di obbligazioni convertibili chiamate cashes, per cui si tratterebbe di sostanzialmente duplicare un intervento che già era stato fatto all'inizio anno ed era oneroso per gli azionisti della banca. Una domanda, Alessandro: altri gruppi bancari, comunque altre società quotate, penso a Telecom, Eni, Fiat, Generali, Enel l'ultimo caso, e San Paolo, anche intesa San Paolo, ci mancherebbe, hanno fatto ricorso al mercato emettendo in sostanza obbligazioni, cosiddette corporate bond. Perché Unicredito, che pure era ipotizzato lo facesse, sembra escludere la strada di un'emissione di obbligazioni? Beh, perché si tratta di una banca, la banca a differenza delle società industriali ha come obbligo quello di aumentare il patrimonio di vigilanza, che è vigilato dalla Banca d'Italia, e l'attesa è che tutte le banche centrali europee stiano innalzando i tetti dei ratios patrimoniali, per cui serve per finanziare le imprese dopo la crisi finanziaria che c'è stata negli ultimi due anni, di aumentare il patrimonio in modo da ridurre la leva finanziaria che in questi anni è stata causa di tanti problemi, per cui diciamo il tema di aumentare il ratio patrimoniale riguarda Unicredito e riguarda Intesa San Paolo. Intesa San Paolo ha, a differenza di Unicredito, la possibilità di agire sui ratio patrimoniali effettuando una serie di cessioni di asset. Fideuram, ma non solo, diciamo. Fideuram, la banca depositaria e altre attività che non ha integrato in questi anni, che può vendere e che non sono strategiche, le vende ovviamente perché non sono strategiche per il business, e che possono ovviamente migliorare i ratios patrimoniali della banca, ma per una banca, a differenza di Fiat, Enel e tutte le altre società che tu menzionavi, non è un problema di finanziamento, il problema è di aumentare il capitale, il patrimonio di vigilanza, e in modo particolare quello che incide nel cosiddetto Core Tier 1, che lo citiamo spesso sui giornali in questo ultimo periodo, è quello che misura il capitale vero, cioè dato dalle azioni della società e non dalle obbligazioni o dai vari strumenti di debito che vengono emessi. No, te l'ho chiesto perché è una domanda che è arrivata da inizio programma da molti ascoltatori al 349-238-6666. Cioè, mentre è chiaro, vedo anche dai messaggi, che molte banche, Unicredito, Intesa San Paolo, anche Ubibanca, hanno definito cari, troppo cari, i Tremonti Bond, non era chiaro agli ascoltatori perché si ricorresse all'aumento di capitale e non a una richiesta di soldi sul mercato. La cosa è molto diversa, infatti ve l'ha ben spiegata Alessandro Graziani: se tu chiedi un prestito non migliori, diciamo così, Alessandro, la tua situazione contabile, perché comunque questi soldi li devi ridare, non la migliori soprattutto per gli indicatori a cui tu facevi riferimento, i core tier, mentre se tu aumenti il tuo capitale chiedendo a tutti gli azionisti, ai soci, di mettere più soldi dentro, quello sì, sono soldi, diciamo, che restano, che non devi ritornare. L'ho spiegato in maniera un po' forse superficiale, ma spero corretta, Alessandro. Tendenza che lo vediamo alle leggendo anche i giornali, non solo italiani ma internazionali, in questi giorni tutte le banche europee stanno monitorando e vedendo, perché Royal Bank of Scotland, lo vediamo oggi sui giornali, che pianifica un aumento di capitale, il Banco di Santander spagnolo realizza un IPO in Sud America per incassare e migliorare i ratio patrimoniali. È una tendenza, diciamo, generale delle banche europee, ma la vedremo anche le banche statunitensi, perché il comitato dei governatori è intenzionato ad aumentare i livelli di capitale delle banche. Esatto. Entro la fine dell'anno, a questa famosa soglia del 8% di Core Tier 1 rispetto a quella del 6% attuale. Cioè vogliono aumentare le banche centrali il capitale che le singole banche hanno in rapporto, è chiaro che stiamo sempre parlando di rapporti, mettiamolo così, agli impieghi, alle sofferenze, a tutto quello che poi è l'attività bancaria classica. Alessandro Graziani, ci risentiremo nelle prossime ore o nei prossimi giorni, dipende cosa uscirà da Unicredit. Grazie per ora al collega del Sole 24 Ore. E adesso Livia Zancaner, Radio Core del Sole 24 Ore. Livia, ti chiederei ancora qualche minuto di pazienza perché siamo sotto GR. Un commento però, se ho 30 secondi, mi fanno segno della regia che non ce li ho, allora nemmeno il commento ti chiedo, te lo chiedo dopo su un titolo più sottile, però che oggi tanto si è mosso. Mi riferisco a Safilo, dopo le novità sull'ingresso della Valle, più 24,2%, il peggior titolo Pininfarina, meno 5,8%, male anche Tiscali, meno 4,82%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per Parole di Borsa, dopo la lunga intervista con il ministro Maurizio Sacconi sul tema, la notizia secondo me più forte di oggi, il dato sulla disoccupazione in aumento, una variazione di disoccupati mai così forte dal 1994, la disoccupazione come percentuale resta ancora al 7,4%, abbiamo anche approfondito le ipotesi e lo studio su Unicredito e adesso il resto dei titoli. Livia Zancaner, una domanda, però lo chiariamo a tutti gli ascoltatori. Il titolo Unicredito perde il 3,5%. Alcuni chiedono, ma insomma, se uno fa un aumento di capitale per rafforzare il suo patrimonio, la borsa dovrebbe essere contenta. Possiamo ricordare che in realtà un aumento di capitale in tal modo significa una diluzione del valore del titolo? Sì, allora solitamente infatti quando vi sono degli annunci relativi ad aumento di capitale, le azioni oggetto della ricapitalizzazione sono solite perdere terreno a Piazza Affari, in quanto appunto la ricapitalizzazione comporta una diluizione e comunque è la società che va a chiedere soldi, tra virgolette, soldi al mercato. E dubito e non ricordo casi di titoli quotati che quando vanno a chiedere soldi vengono premiati dal mercato. Andiamo avanti con gli altri titoli. Intesa, alla fine, diciamo, ha chiuso con un più 0,2%, ma comunque si distanzia rispetto a altri bancari, penso anche al Banco Popolare che perde lo 0,5%, la Pop Milano meno 0,2%, Mediobanca meno 0,3%. Intesa? Sì, allora Intesa San Paolo appunto ha chiuso sopra la parità discostandosi degli altri titoli bancari a Piazza Affari che sono stati per lo più trascinati dal calo di Unicredit. Allora, per quanto riguarda Intesa, quindi ci sono le indiscrezioni relative all'emissione da 1,5 miliardi e intanto il mercato ovviamente si interroga sempre sull'eventuale vendita della controllata Fideuram a Exor, che è la finanziaria della famiglia Agnelli. Infatti oggi indiscrezioni stampa riferiscono che un'eventuale cessione che nei giorni scorsi sembrava più imminente si starebbe in realtà allungando. Ancora Mondadori più 2,8%, continua a salire Mondadori. In generale, dopo la battuta d'arresto di ieri, bene oggi tutto il settore dei media, Mediaset più 1,7%, sempre le conferme di una raccolta che dovrebbe andare meglio del previsto? Sì, allora appunto dopo la battuta d'arresto di ieri, il settore media a Piazza Affari ha continuato a crescere e il comparto appunto si trova in un trend ascendente da lunedì scorso, quindi da lunedì 14 settembre. Sono andati bene quindi sia Mediaset sia Mondadori, anche RCS che ha guadagnato il 5%. E nell'ultimo periodo appunto i media sono stati sotto riflettori per grazie a una maggiore fiducia sull'economia e appunto a qualche segnale di risveglio del mercato pubblicitario. Ancora tre titoli, vabbè, citiamo anche gli altri, ci mancherebbe, vedo già alcune proteste, di Unipol più 5,2%, possiamo in una battuta toccare anche il caso Unipol? Sì, allora Unipol arriva da tre sedute di realizzi. Sì. Allora, non vi sono particolari novità sulla società, ma secondo gli operatori il buon andamento del titolo di oggi è dovuto da una parte alle indiscrezioni sul miglioramento della situazione finanziaria del gruppo, dall'altra ad alcuni report positivi degli analisti, tra cui quello pubblicato ieri da Chevro che ha alzato il prezzo obiettivo. Dicevo, altri titoli più sottili, fermo restando che poi Bulgari ha perso il 2%, Italcementi ha perso l'1,3%, Atlanti ha perso l'1%, Luxottica ha perso lo 0,80% come Telecom Italia e A2A ha perso mezzo punto percentuale. Che bene sono andate anche Campari, più 1,4%, Fiat più 1,3%, Eni più 1,2%, Terna più 1% come Autogrill, Saipe, Mefi, Meccanica. Il caso di oggi, al di là di Intesa, è rappresentato a mio avviso da Safilo, più 24,2%, Marcolin più 11,8%. Sì, allora Safilo ha beneficiato della notizia dell'ingresso nel capitale di Diego Della Valle con il 2% e Diego Della Valle appunto detiene con il fratello Andrea oltre il 40% di Marcolin. Il mercato scommette quindi su un ingresso più significativo della famiglia Della Valle nel capitale di Safilo, probabilmente a fianco della stessa Marcolin. Infatti, come sappiamo, Safilo sta cercando un partner per migliorare la struttura patrimoniale e finanziaria, ma era in contatto con dei fondi di private equity che poi quest'estate si sono tirati indietro. Ecco, vedo adesso le agenzie, è terminato il comitato strategico di Unicredito, riunione durata poco più di 2 ore, sono usciti tutti i vicepresidenti da Piazza Cordusio, ma nessuna dichiarazione è stata resa in merito alle ipotesi di un aumento di capitale. Grazie Livia Zancaner, Radio Cori sulle 24 ore. 18:17 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, oggi la finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri, come diciamo in apertura del programma, è leggermente migliore la stima sul deficit e sul PIL meno 4,8, deficit meno 5,3%. Il ministro Tremonti ha detto: attenzione, non è nemmeno una finanziaria, è una fotografia. Non è una manovra, è l'opposto, sono le tabelle 2009-2010 con l'aggiunta del 2012. Quindi lei sta applicando un meccano mentale lei doveva dirmi, potrebbe chiedermi, ma non mi ricordo esattamente il numero, ma lo verifico, cos'era la manovra di luglio delle creditori. Questa è proprio le tabelle secche, quindi è la legge di bilancio dello Stato 2009, 2010 e 2011. Non c'è nessuna manovra, non ci sono tasse, non ci sono tagli, non ci sono aggiunte, non ci sono sottrazioni. Cioè è una fotografia. Lei mi può dire allora perché l'avete fatta, che valore ha? Un valore fondamentale perché è la stabilizzazione del bilancio della Repubblica Italiana, cioè i ministeri sanno, come sapevano l'anno scorso, che sul 2010 hanno le risorse che erano pianificate nel 2009, non di più e non di meno, e lo stesso sul 2011 e sul 2012. Il valore in sé, il valore operativo, politico, tecnico è molto elevato, apparentemente è un adempimento tecnico, è anche un adempimento tecnico, ma è fondamentale per governare un ministero. Tu sai quelle voci, non più e non meno. E mentre il ministro Tremonti ha così illustrato una non manovra, appunto una fotografia dell'esistente, come ricordavamo in apertura del programma, è arrivato il rapporto completo, quello già anticipato, di Bruxelles sui costi delle banche dell'Unione Europea, che vedono quelle italiane al primo posto, purtroppo, in Europa. Le più care in Europa e anche quelle che hanno costi più nascosti, lo dice la Commissione Europea, Praticamente in media un conto corrente italiano costa 253 euro contro i 178 della Spagna, i 154 della Francia, i 103 della Gran Bretagna, gli 89 della Germania, per non parlare dei 27 della Bulgaria. E ricordavamo che insomma tra noi e la Germania, che penso abbia un sistema bancario più che efficiente, ballano alla fine praticamente 160 euro di differenza in un anno. Tra l'altro sempre Bruxelles dice, attenzione, gli italiani sono i correntisti che cambiano meno conto corrente, solo il 9% lo ha spostato negli ultimi 2 anni, perché secondo Bruxelles il consumatore italiano non capisce cosa paga quando gli offrono un nuovo conto per mancanza di trasparenza e non riesce a confrontare le offerte e ha paura dei costi nascosti. Oggi poi un imprenditore sul quotidiano La Repubblica ha lanciato un'iniziativa particolare che speriamo, lo dico in senso buono, resti un'iniziativa unica, un'inserzione sulle pagine milanesi di Repubblica per chiedere un prestito di onore da 100.000 euro, solo 100.000 euro, per salvare la sua azienda. Si chiama Antonio Mangone, ha 42 anni, è amministratore delegato della concessionaria di pubblicità alla Big Sites e ha pensato di utilizzare questa, l'artefice dell'iniziativa è Antonio Mangone che ha 42 anni, però che cosa chiede lui? Chiede, visto che deve rientrare su 1 milione di crediti da clienti che non riescono a pagare, chiede un prestito di onore. A lui devono essere dati 1 milione di euro. Sentiamo la nostra Maria Luisa Pezzali che lo ha intervistato e obiettivamente l'intervista fa cadere le braccia. La situazione del credito per le piccole e medie imprese oggi in Italia è una cosa allucinante, è un problema che non viene affrontato seriamente, quindi per non andare perso tutto il lavoro fatto in questi anni, la mia provocazione è stata quella di chiedere un prestito d'onore, perché è l'unica cosa che mi è rimasto, perché ormai oggi vengo valutato per un rating di banca o vengo valutato per nient'altro. Secondo le banche oggi è un demerito essere imprenditore, se tu dici che sei un imprenditore le banche si spaventano perché dicono lei è uno stipendio fisso? No, è un imprenditore, allora mi dispiace, non possiamo più darle nulla. Avendo 1 milione di euro di crediti e avendo 450.000 euro di debiti, io rischio domani che qualcuno venga da me e mi dica scusa, mi devi pagare, decreto ingiuntivo mi fa fallire avendo dei crediti. La legge, lo Stato riesce a intervenire per sbloccare e scongelare i crediti delle aziende? Allora, anziché continuare a parlare di Tremonti Bond per le banche che continuano sempre loro a prendere i soldi e non darli, perché non dare direttamente alle aziende? Quindi ho detto, la mia proposta è che lo Stato si faccia carico del 60% dei crediti, scongeli questi crediti a favore delle piccole e medie imprese e se ne faccia carico attraverso l'utilizzo dei Tremonti Bond, però deve sbloccare, perché altrimenti qui siamo milioni di piccole e medie imprese che chiuderanno, tante partite IVA che chiuderanno. Io ho detto basta, allora la mia provocazione è, ci sarà qualcuno che mi farà un prestito d'onore? Esiste l'onore oggi? Io sono in grado di restituirli con il mio lavoro. C'è qualcuno? E allora la mia provocazione è, vediamo se troviamo qualcuno, ma non ci sarà nessuno. Ho deciso di uscire pubblicamente con questa provocazione, perché non ho altre strade, cosa devo fare? Tentare il suicidio? Io amo la vita, quindi per me la vita è riuscire a superare i problemi, per me è riuscire a trovare e mettere insieme tutte le persone che come me hanno un problema oggi e fare un'azione di forza, di lobbying, politica, perché è ora di finirla qui, di parlare di cose di destra, di cose di sinistra, non ci sono cose di destra e così di sinistra. Qui esiste il lavoro, esiste produrre, esiste avere la dignità di poterti pagare il mutuo, esistono tante cose che anche una persona come me che fino a ieri avevo le possibilità, ho capito quanto è difficile affrontare la vita quotidiana se non hai la forza finanziaria per affrontare i problemi quotidiani, e quindi ho detto cosa devo fare? Devo reagire. Per me la reazione è stata quella di inventarmi un'inserzione come se stessi cercando qualcuno, qualcosa, e io cerco di salvare il mio onore. A chi è rivolto la sua richiesta? Alle tante persone per bene che penso ci siano ancora, perché per me le banche non sono più degne oggi di essere chiamate tale, perché le banche dovrebbero assolvere un compito di prestare i soldi senza andare a considerare se sei in Basilea 2 oppure sei in Basilea 40, perché questo ha rovinato il sistema delle piccole e medie imprese italiane. quotidiane, che è stato sempre il fulcro dell'economia italiana. Oggi bisogna anche andare a vedere lo storico di una persona per dire sì, questo è degno. È un computer che decide il tuo destino, perché ti vengono messi i dati. Per di più, io l'anno scorso ho chiuso anche il mio bilancio societario inutile, ho chiuso con più 20% e le banche mi hanno tirato lo stesso il mio rating. Cosa devo fare? Non so più cosa devo fare. Le dico, questo è un esempio. Unicredit ha avuto un atteggiamento con noi che è totalmente di chiusura. Adesso è uscita fuori una pubblicità di Banca Intesa che offre 5 miliardi per le piccole e medie imprese, ma io sono convinto che andando a chiamare Banca Intesa mi cominceranno a chiedere, ma lei cosa mi dà in cambio? Il mio credito. Ecco che torna in gioco il mio credito. A cosa serve avere un credito chiuso? Ho chiuso con un credito di 1 milione di euro che è certificato da un bilancio. Mi deve servire a qualcosa. Io questo che non chiedo la carità, però troverò qualcuno che crede in me, ma non lo so. Devo chiamare qualche arabo, non lo so, perché tutti i giornali ormai parlano, gli arabi sono qui che comprano l'Italia, però sa cosa se ne fanno di me? Non sono uno che produce purtroppo beni, ma produce servizi, però mi piacerebbe, no? Che non comprassero soltanto risanamento immobiliare del signor Zunino, che poi alla fine tutte queste persone cadono in piedi, noi però non abbiamo niente che ci possa salvare, queste persone cadono tutte in piedi, i signori, quelli del quartierino che sono tutti belli in giro, tranquilli, rilassati, a questi signori hanno offerto tanti di quei soldi per fare scalate assurde, e io dico, io sono piccolo, ma come me, se mi metto insieme con un altro milione di piccole e medie imprese, penso che facciamo molto più fatturato del signor Ricucci o dei signori Zunino, eppure noi siamo zero. Lei cita nell'inserzione anche Galliani, Berlusconi, sì, Moratti. Ma sì, perché il signor Galliani, oltre che essere il vice president del Milan, è un amministratore delegato, è anche lo sport. Quindi io penso che un uomo di sport mi possa aiutare a capire qual è il mio problema, visto che è uno che paga fior di stipendi a dei calciatori. La stessa cosa è Moratti, che è anche nella doppia veste di imprenditore, e Berlusconi, perché è anche l'imprenditore. Non lo considero neanche come presidente del Consiglio in questo momento. Dice sempre che lui è un imprenditore. Non ha mai lasciato a casa nessuno, e quindi io gli dico aiutami, io sono il simbolo di queste persone che oggi chiedono aiuto, allora fallo con la politica se lo puoi fare. Per di più ho anche mandato anche un fax a giugno alla presidenza del consiglio, però giustamente lui si vede che aveva altri problemi, è da giugno che faccio questa mia battaglia. Mi hanno già chiamato anche molti imprenditori oggi per solidarietà, non sono da solo, però io ho detto devo fare qualcosa per dire basta. Lei sta pagando lo stipendio ai suoi dipendenti? Certo che lo stiamo pagando, lo stipendio ai miei dipendenti, da sempre. Il nostro cruccio è pagare gli stipendi ai nostri dipendenti, è quello di andare avanti malgrado non avendo liquidità, perché purtroppo l'ultima che avevamo l'abbiamo anche messa oltre in azienda, abbiamo messa questa a febbraio e a marzo, perché il problema è che le banche ci hanno detto rientrate perché ci hanno tagliato il rating, quindi abbiamo dovuto ricoprire, abbiamo dovuto mettere i soldi in azienda. Noi crediamo in quello che facciamo ed è stupefacente che nessuno nelle alte sfere si preoccupi di problemi seri, che sono quelli che poi servono a risolvere gli altri problemi, perché se tutti incominciano a rilavorare, tutti cominciano a sbloccare i propri crediti, incominciano a pagare i fornitori, l'altro fornitore pagherà il suo fornitore e la gente comincerà a andare a spendere un po' i soldini e cominceranno a girare i soldini, incominceranno ad aumentare le entrate fiscali, basta la buona volontà. Basta dare i soldi alle banche, datele alle imprese, basta, non c'è più bisogno di avere l'intermediario delle banche, perché le banche hanno già fatto abbastanza danni, dovrebbero essere loro a chiedere scusa, a dirci eccovi i soldi, li meritate, eccoli, e invece no, dobbiamo pregarli, dobbiamo metterci in ginocchio, non ne posso più, io ho la mia dignità, basta. Non mi sembra che ci sia molto altro da aggiungere, e quindi da Sebastiano Berisoni un auguro di buona serata. Noi torneremo domani a occuparci anche di questo dalle 17 in poi.